Sì, ciao, buongiorno a tutti. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e Gigi sono io e... Dai, vai. State ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino, musicista tanzerino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. e altre storie. E altre storie. SMS al numero 333 64 67 662. Дружба, барьеры, коммуникации, культуры. Вложи капитал в твою совесть. capito? Oh. Abbatti le barriere delle comunicazioni e della cultura. Sì, grani, siete una comunicazione della cultura. Investi sulla tua conoscenza. Conoscenza. Scuola per mediatori linguistici. Sabato 24 marzo. Vieni alle giornate di orientamento. Alla Scuola per mediatori linguistici Carlo Bo. Carlo Bo. Sedi a Milano, Roma, Bari, Bologna e Firenze. Info ssmlcarlobo.it. E vai con la musica! I Davis Musicata! Cammino di Gigi D'Agostino. Di capocchie. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. E altre storie. Dai Gigi, come si sta bene a casa? E vai. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Benvenuti nel mondo che non c'è. Spettacolo Pradera. E ferma tutto, per favore. Devo fare un annuncio. Questo sabato, di sera, alle 22.30, ci incontriamo a Cremona, discoteca Centrale del Latte. Se volete insinuarvi nella lista Gigi Dag, entrate nel sito, quello mio, www.gigidagostino.com. Una volta nel sito cercate il forum, entrate nel forum e cercate il topic dedicato. Annuncio terminato. Guardiamoci in faccia, stringiamoci la mano. Gigi D'Agostino, un suono sonoro. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. Di nuovo cambio luna e quartiere.

guardiamoci in faccia, stringiamoci la mano. Gigi D'Agostino, un suono sano, mica petardi. Mica petardi. Dall'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Quello vero. State ascoltando una musica bella da ballo. e io sono Gigi D'Agostino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. Se volete mandare le vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, le vostre proteste, proteste, mi incespico, i vostri dubbi, mandatemi il vostro SMS al numero 333 64 67 662. E ferma tutto, per favore. Spazio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. Taking lots of chances before, but I'm not gonna give in.

Gigi D'Agostino. La radio in colore. Ciao, sono Gigi D'Agostino e altre storie. State ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire. ferma un po'. È importante. A Pasqua, la domenica sera, quella di Pasqua, ci incontriamo a Rimini, presso la discoteca Altro Mondo. Io suono dalle 22 alle 2. 22, 2 e altre storie. Ci sentiamo domani. Grazie.